Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Verticale verso Mertens, occhio a Mertens, l'anticipo, il piazzato! 1-0 Napoli! Mertens ricomincia da dove aveva finito col primo gol stagionale. Verticalmente Insigne, Mertens ancora, messo giù, calcio di rigore. Parte Jorginho, 2-0 Napoli! Con grande freddezza mette dall'altra parte Cardinal e fa 2-0. Noi abbiamo fatto, penso, il meglio che possiamo fare in questo momento della stagione. Ci manca un pizzico di lucidità sotto porta, perché abbiamo creato tantissimo. Pizzico forse di sfortuna, abbiamo preso un palo e una traversa. Potevamo fare qualcosa di più negli ultimi 10 minuti. In questo momento sono soddisfatto di averla fatto la squadra. Prendiamo per buono l'inno della Champions. Ieri sera abbiamo visto il primo spunto, il primo assaggio, oggi in diretta 800240024. Siamo qui, Claudia Schiattone, nostro autore, Gianmarco Peronato in regia, Giovanni Capuano, eccoci, mio compagno di banco. E addirittura Pierluigi Pardo, che ieri sera ha commentato, avete sentito la voce, questa partita. Ciao Pier. Come va? Tutto bene? Moltissimo, benissimo. Bene, mi sembra. Il Napoli come va? Il Napoli va bene, poi è chiaro che era possibile trovare il terzo gol. Il terzo gol avrebbe reso il ritorno veramente una formalità, non è arrivato. È un po' un peccato, perché nell'ultimo quarto d'ora il Napoli ha avuto due uomini in più, perché ha sprecato troppe occasioni. Io ho qualche dubbio, insomma, sul fatto che questo sia un gioco bellissimo ma molto dispendioso, ma questo poi è un tema che affronteremo durante la stagione. Però mi sembra molto bene, è stato davvero un risultato ottimo. Ma tu che voto gli dai, Pier, al Napoli di ieri? Beh, un buon voto, un 7,5. Ma anche 8. Sì, vabbè, poi bisogna mettersi d'accordo sulla scala. Mettersi d'accordo sul fatto che è il 16 agosto. È vero, che aveva il preliminare da preparare, quindi l'ha preparato con ferocia. Però è il 16 agosto, non dimentichiamoci. Guarda, io ho parlato con il 16 agosto gente, anche per quegli altri. Il 16 agosto sì, per però, tutti. Però è vero che inizia più avanti della preparazione, aveva già fatto 4 partite. Questo a me è piaciuto il Napoli ieri, io sono soddisfatto. È chiaro che per come si era messa, insomma, voglio dire, è un rammarico che ha espresso anche Sarri, per come si era messa con quell'episodio improvviso dell'11 contro 9, insomma, avere due uomini in più poteva diventare veramente un'opportunità clamorosa, anche se la grande quantità di occasioni non sono arrivate in 11 contro 9, quelle che secondo me ti devono fare. È vero che c'è il gol sbagliato da Milik, ma il Napoli ne aveva sbagliati tantissimi anche prima. E questo secondo me significa che la scommessa, io credo, che hanno fatto Sarri e De Laurentiis di tenere il giochino esattamente così com'è, è una scommessa che quest'estate ci fa divertire. Però guarda, sì. questo secondo me è anche nel modo di giocare del Napoli, cioè il Napoli gioca con una quantità di tocchi di grande qualità che rendono inevitabilmente questa squadra bellissima. Capace di costruire tante palle gol e anche di sprecarne qualcuna, cioè secondo me è abbastanza fisiologico, perché se pensi al lavoro che fanno Mertens e Insigne, tanto per fare due nomi, Callejon è il più centrocampista dei tre, ma insomma se pensi a quanto lavorano rispetto a un attaccante di tipo tradizionale, rispetto a una prima punta di tipo tradizionale, ci sta che siano un pochino più stanchi in qualche situazione, un pochino meno lucidi sotto porta. Quindi secondo me questo sarà il marchio di fabbrica del Napoli: costruire tantissimo, sprecare anche un po', però no, poi l'importante è che il saldo sia positivo, e ieri lo è stato certamente. Sì, inseguire la perfezione io credo sia impossibile. Ricordiamoci che il Nizza, che io oggi ho letto tanti anche sui social dire il Nizza troppo scarso, il Nizza due mesi fa, il Nizza ha buttato fuori l'Ajax, che due mesi fa ha fatto la finale, sì, di Europa League. Sì, no, ma indubbio, l'avversario, ma lo sapevamo da prima, no, che l'avversario era di buon livello. È arrivato un po' acciaccato, questo va detto, nel senso che parlava anche con i colleghi francesi, l'inizio in Ligue 1 è stato negativo con 2 sconfitte. C'erano un po' di problemi di natura fisica, comunque Balotelli e lo stesso Snyder, che è appena arrivato, però insomma parte del mercato, così come Dalbert è andato via, Snyder è arrivato ed è un giocatore su fare inizia punta molto, e poi soprattutto insomma l'assenza di Balotelli pesa, ha pesato, quindi onestamente non è un risultato che mi sorprende, questo è un risultato che ci sta, che mi aspettavo, e quindi quella pizzica componente di rammarico perché potevano essere di più i gol, ce l'ho. Però, ripeto, il Napoli ha fatto il suo, ma i segnali erano arrivati positivi. Anche senti, parlando con... A proposito di segnali positivi, te ne posso dare uno così a pelle? Sì. Jorginho, l'anno scorso praticamente dimenticato da Dio, dagli uomini e da Sarri soprattutto, che ieri è stato assegnato e è stato protagonista di questa partita. Ma sì, Jorginho l'anno scorso è andato in un certo momento della stagione un po' in difficoltà con Diawara e Zielinski che crescevano. Però sai, quello è il reparto del campo dove il Napoli può permettersi di fare turnover, è l'unico dei reparti nel quale le gerarchie sono un pochino più flessibili, perché davanti e dietro mi sembra che invece le indicazioni sono molto precise, sono molto chiare. È la forza delle grandi squadre, insomma, avere una rotazione, sulle 50 partite devi avere una rotazione di un certo tipo, per questo per me è importantissimo pensare di recuperare il piano B con Milik, perché io... con tutto l'affetto e la stima per Insigne e Mertens Calhecon, penso che 50 partite di Insigne e Mertens Calhecon giocando sempre palla a terra siano pesanti, siano stancanti, per cui il Napoli deve lavorare anche sul piano B, che è quello di una punta centrale. Oltretutto la punta centrale è brava, poi ieri ha sbagliato un gol clamoroso e quindi magari stamattina non sarà felicissimo. È un po' meno bravo. Sì. No, poi non dimentichiamoci, Pierluigi, che il piano A è nato dall'emergenza ed è stato un piano A meraviglioso, anche fortunatissimo. Però è chiaro che la costruzione, la struttura, l'idea era diversa, prevedeva, certo non Mertens da 30 gol, ma prevedeva un centravanti vero che si chiama Milik e che non c'è stato mai. Sì, sì, ma infatti, ma è nato dall'emergenza ed è nato anche secondo me dalla capacità e dalla mentalità di Sarri, che è uno che quando trova una strada che funziona la segue, non è un allenatore che si mette a fare un turnover scientifico, è un allenatore che prende una strada veramente finché la barca va, ecco, e siccome poi è andata molto bene quella barca, era giusto continuare così. Però ripeto, secondo me nelle 50 partite, più in un discorso di campionato che di Champions League, di Coppe Europee, secondo me il Napoli deve avere almeno un paio di alternative tattiche, perché comunque ha le qualità. Ieri c'è stato un momento, che davvero l'ha sottolineato in telecronaca, in cui Insigne ha dato a Milik un pallone che era perfetto per Mertens come idea, un tocco verso la fine della partita, sulla sinistra, in verticale, sulla velocità. È chiaro che Milik non ha quelle caratteristiche, Milik ha senso se lo puoi servire con i cross. Non dimentichiamoci che l'anno scorso aveva iniziato in Champions League con la doppietta a Kiev e con i gol di testa, quindi questa doppia dimensione le grandi squadre devono avercela, e secondo me è la scommessa di Sarri, è la sfida di Sarri, ma insomma è bravo e ci sono ottime probabilità, però è importante lavorare su queste cose. 50 partite sono bravissime, ma l'hai visto anche ieri sera quanta fatica, nel senso quante energie, ero stanco per loro, insomma, come dire. Sì, ma loro si divertono, cioè io ho l'impressione che noi non lo possono fare per 90 minuti dentro la partita, non lo possono fare, e il grande salto di qualità sarà gestire gli altri, i 20-30 minuti in cui tu non riesci ad esprimerti a quei livelli lì, cosa che l'anno scorso è costata tanti punti. Però io penso, Pier, che se il Napoli è costruito per giocare così, dobbiamo prendercelo così com'è. E alla fine il bicchiere è mezzo pieno. Io penso che da ieri esca una notizia, e cioè il bicchiere del Napoli, e cioè sì, com'è il bicchiere del Napoli? Mezzo pieno, mezzo vuoto, lo puoi ieri sera? Mezzo pieno, vi giuro, sta dicendo mezzo pieno. Sì. Che voto dai da 1 a 10? Vabbè, da 1 a 10. Ma chi è? Aspetta, Ciro Ferrara, ah. 7? 7? Aspetta, se no non ci credo, non è Capuano e gente, adesso rimasti il telefono da un gommone all'altro, occhio non farlo vedere nel mare, Dai, fai un saluto. Fai un saluto a Capuano e gente che stanno lavorando a Milano, occhio, È caduto in acqua. Ciao. Ciao a tutti. Ciao Ciro. Ciao, buttalo via quel telefono, tanto non funziona, Ciro. Lo sento. No, ti dico, è appunto quel il telefono di Pardo non si sente mai nella vita, cioè in generale non si sente, buttalo pure via. Fallo cadere in mare. No, ma non si sente. Non si sente, ma che... Aspetta che te lo ripasso, Pierluigi. Ma che... Grazie. Lui dice che non si sente perché dovrebbe dire che questo Napoli può vincere lo scudetto, e da buon napoletano scaramantico non vuole fare questo passo, perché la grande domanda dopo aver visto la Juve perdere la Supercoppa e aver visto ieri 60 minuti almeno di grandissimo Napoli è se si sono ribaltate le gerarchie. Dai, no, se si sono ribaltate le gerarchie in testa. Facciamolo sto giochino, Pier? No, guarda, secondo me, a parte che Pacino lo sentivate? Sì, benissimo. Sì, noi sentivamo lui, lui non sentiva noi. È tonico, lui non sentiva voi, però insomma adesso lo useremo per le clip come Ambrosini, che dice ai figli, sto arrivando! Sì. Arrivo! No, guarda, le gerarchie non lo so se si stanno ribaltando, secondo me c'è grande velocità nel dare giudizi, nel dare situazioni, perché secondo me la Juve ha tempo fino al 31 per migliorare le cose, perché comunque ha tanto budget, perché comunque qualcosa dietro secondo me dovrà fare. Detto questo, è un anno di possibili cambiamenti, questo sicuramente, perché comunque quando perdi un punto di riferimento come Bonucci, un altro come Dani Alves, cioè la seconda finale persa in Champions League in 3 anni, ci può stare, come era successo 2 anni fa, una partenza magari un po' complicata. Continuo a pensare che la Juve sia una favorita, quasi per diritto divino, nel senso che una squadra che ha vinto per 6 anni il campionato, che è arrivata in finale di Champions League per 2 anni su 3, che comunque ha più budget di tutte le altre. Questo è un discorso che fa lo stesso Sarri, fatturato, ecco. Allora, no? Questo è uno degli argomenti di questa puntata 800240024. Al di là del Napoli, Pardo ha già cominciato il griglione di partenza, quindi Juventus davanti a tutti, e io sono d'accordo. Sì, no? E le altre? Le altre vengono dopo. E le altre? Allora, Juve-Napoli, prima fila. Sicuramente il Napoli per continuità la mettiamo. Poi, seconda fila. Dobbiamo fare come il Gran Premio. La Roma bisogna capirla. Io, insomma, poi siamo anche probabilmente tutti condizionati dalle amichevoli, che non so, brillanti, però... Quindi non sta più in seconda fila la Roma? Rischia di non essere in seconda fila. Ma chi ci metti? La Lazio, l'Inter o il Milan? Ci metto le milanesi in seconda fila e le romane in terza fila in questo momento. Con davanti? Ma davanti, no, perché me... oggi sulla stampa ha molto fatto discutere, ad esempio la stampa ha messo la Lazio davanti alla Roma in terza fila e il Milan davanti all'Inter in seconda. Io sono d'accordo. Metterei l'Inter terza, la Roma quinta, però insomma sai... Quindi la griglia di Pierre è Juventus-Napoli in prima fila, Inter-Milan in seconda, Roma-Lazio in terza. Sì, direi di sì, e poi Fiorentina e Torino in quarta. Penso sinceramente che poi insomma siamo tutti un pochino condizionati da quello che si è visto fino adesso. Un anno fa per esempio la Lazio, sapete che era un mio pallino, no? Perché secondo me era molto più forte di quello che sembrava. Adesso dopo la vittoria, tra l'altro ieri ho parlato con Parolo, insomma, uno dei grandi protagonisti della partita dell'Olimpico, adesso chiaramente c'è anche questa sensazione. La Lazio secondo me ha un'ottima formazione di partenza, però avendo anche l'Europa League quest'anno ovviamente ha la necessità secondo me di robustirla ulteriormente, quindi qualche punto interrogativo secondo me c'è, però è una squadra di grande qualità e quindi è in quella situazione. Ma il vero punto interrogativo secondo me è la Roma, perché la Roma ha cambiato allenatore, perché è paradossale che una squadra che comunque chiude al secondo posto con la Champions League garantita di diritto di spendere dei pezzi così importanti debba fare una rivoluzione così grande. Quindi la Roma è veramente un grande punto interrogativo. E le milanesi, ti dico l'Inter davanti al Milan, perché comunque secondo me Spalletti è il top player e perché mi aspetto che da qui al 31 comunque qualcos'altro arriverà. Il Milan è partito bene, ha cominciato un percorso molto importante, sono curiosissimo, però insomma tanto Pierluigi, manca poco a scoprirlo anche in campionato, no? Da domenica siamo qui, ti saluto, ti abbraccio, buon bagno con Ciro Ferrara e a prestissimo. È un duro lavoro, ma qualcuno deve fare la staffa. Noi intanto stiamo qua. Noi stiamo qua 800240024 in diretta, traffico, torniamo. La chiediamo. Dimmi. La griglia a casa, griglia, su Twitter, chiaro, chiocciola tutti i convocati, ci mettete l'hashtag tutti convocati, la griglia oggi e domani le leggiamo, dai. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Tutti convocati. Comunque, a parte le cagate, io l'ho sempre detto, io sono innamorato di Napoli e davvero anche dei napoletani, e mi dispiace incontrarli sempre come avversari. Balotelli su Instagram, Giovanni Capuano, come leggi questa dichiarazione di amore un po' paracula? L'ha detto tante volte, no, perché paracula? È assolutamente vero, lui ha poi anche questioni familiari e affettive che lo legano alla città di Napoli. E secondo me prima o poi Balotelli a Napoli ci finisce anche. In fondo ha davanti ancora 7-8 anni di carriera ad alto livello. Vediamo. O comunque a un discreto livello, e quindi prima o poi secondo me a Napoli ci finisce. Comincio a darti i nostri amici da casa. Exit allora, 3-4-0-0. Aspetta, 800-24-0024 per chiamarci, che siamo in diretta. 349-238-6666, sms e whatsapp. Fatto il notabile, Giovanni. Allora, c'è un amico che scrive che la Roma finirà quinta, lo scudetto lo può vincere l'Inter. Un altro, Massimo da Cagliari, l'impegno del Napoli in Champions influirà sul rendimento in campionato. Non sono attrezzati nelle due competizioni. Allora, la ricordiamo, la griglia che è quella di Pierluigi Pardo, che si è esposto, è Juventus-Napoli, Inter-Milan-Roma-Lazio. Juventus-Napoli, Inter-Milan-Roma-Lazio, se volete mandarci la vostra, noi siamo qui. Più o meno d'accordo, metto il Milan davanti all'Inter, forse, e la Lazio davanti alla Roma, e mi accodo alla stampa. Saluto però Mister Gigi De Canio, buongiorno e grazie, ciao. Buongiorno e bentrovati. Ciao Gigi. Ciao. Senti, ciao. Allora, Ferrara ha dato un 7 al Napoli di ieri sera. Si parla di bicchieri, mezzo pieno, mezzo vuoto. 2-0 al Nizza, poteva essere 3-4, poteva essere pratica chiusa. Siamo al 16 agosto, metti insieme tutti questi elementi, shakerali e dammi il prodotto. Credo che sia stato un po' ingeneroso Ferrara. Sinceramente il 16 agosto, comunque periodo post preparazione, la condizione non è ottimale per nessuno, perché le partite amichevoli non sono come quelle di campionato, per cui visto che insomma non era il Napoli brillantissimo, ciò nonostante ha fatto un numero notevole di palle gol e quindi ha meritato la vittoria, ha dimostrato di mettere in cassaforte questo risultato e questo passaggio del turno, perché si è dimostrata nettamente più forte di un avversario volitivo, bravino, insomma, che ha pensato bene a difendersi, qualche sporadico contropiede, ma in realtà una squadra che quando poi dovrà fare la partita credo che paleserà ulteriori limiti, per cui il Napoli andrà ancora a nozze. Però non dobbiamo sottovalutare, perché noi ci siamo abituati a prendere schiaffi dalle seconde linee francesi. Cioè, in primavera la Roma è uscita contro il Lione, il Lione è finito dietro al Nizza. Non è scontato che noi possiamo, una nostra squadra può esprimere la superiorità che ha espresso ieri sera al Napoli con il Nizza, che poi non è il Paris Saint-Germain, che non è il Monaco, e su questo insomma il Napoli sarà chiamato poi ad altre sfide nella vera Champions League. Però io non sottovaluterei quel messaggio lì, cioè per essere il 16 agosto secondo me la qualità e anche la continuità, perché abbiamo visto almeno 60 minuti di un ottimo Napoli che ha saputo esprimere il Napoli ieri sera, sono già una notizia. Sono d'accordo, ma fra una settimana il Napoli avrà una settimana ancora di lavoro nelle gambe, una partita ufficiale in più che sarà quella di campionato, per quanto poi importante sia il nostro campionato, che in tutti i calciatori crea anche quella condizione psicologica, no, di competizione continua, per cui i giocatori cominciano ad essere pronti anche psicologicamente nell'affrontare sfide importanti, e io non credo che il Napoli sottovaluterà l'impegno con il Lione, giocando da Napoli, non, come si è visto ieri, non c'è partita. Poi è chiaro che nel calcio, il calcio è bello per questa sua imprevedibilità, e ci sta pure che una sera il Lione trova una grande partita, la Roma si addormenta e magari il Lione supera la Roma. Allora mea culpa, Gigi. Perché è più colpa della Roma che merito del Lione, perché quanto possa aver fatto bene. Ma credo che per quanto riguarda il Napoli, questa maturità che ormai dimostra di avere sempre più, 4 anni di lavoro insieme, perché questi sono gli stessi giocatori che sono arrivati con Benitez, quindi 2 anni con Benitez, 2 anni con Sarri, manca solo Higuaín a questa squadra per essere la stessa, ma che gioca ormai ed è migliorata tantissimo, ha acquisito questa grande convinzione dei suoi mezzi, del suo modo di stare in campo. Le parole dell'allenatore del Nizza sono state chiare, perché dice è impossibile giocare contro un Napoli così. Vabbè, dai, allora siamo onesti, si parte da 2-0, si va a Nizza, il Nizza non mi sembra irresistibile, ci vuole un suicidio collettivo. Però tu hai detto una parola chiave a proposito del campionato, che è quella continuità. La continuità ce l'avremo dopo il volo del tacchino, perché sappiamo le 2 giornate di spottone, poi la nazionale e poi da lì si comincia a fare sul serio. A proposito, io e Giovanni abbiamo così abbozzato il gioco di questo periodo, che è la griglia di partenza. C'è chi dice sì. Caress esagera, secondo me, forza le cose, Napoli davanti alla Juventus, la stampa di oggi è più realistica, rispecchia più o meno le mie convinzioni. Le tue quali sono? Le tue però non le mie ricordo. Le mie sono Juventus davanti al Napoli, le due milanesi con una leggera prevalenza per il Milan, ma leggera, mettiamola alla pari, e poi le due romane con la Lazio davanti alla Roma in questo momento. Guarda, io penso che se Allegri non sistema le cose anche in difesa, la Juve può perdere questo primato che le spetta di diritto, perché per quello che ha fatto negli ultimi 6 anni. I titolari della difesa sono 2 giocatori che hanno una certa età e che quindi con il tempo certe cose si avvertono. Ha perso un giocatore come Bonucci, cambierà e giocherà a 4 e non lo so se in questo momento sono pronti. E quindi sotto l'aspetto difensivo prendere 3 gol dalla Lazio, pensate un po', il 3-2, una squadra esperta come la Juve, forte come la Juve, che prende il 3-2 dopo aver fatto praticamente aver recuperato dal 2-0, questo è un campanello d'allarme che insomma per me toglie un po' di certezze alla Juve, almeno fino a questo momento. Ma secondo te Matuidi è l'uomo giusto? Oggi Tutto Sport scrive aiuta al centrocampo ma serve anche per la difesa. Io non lo so, perché non sono nella testa di Allegri e non so come lui voglia poi impostare, perché ora mi sembrava di aver capito che la Juve potesse giocare, visto gli esterni che ha preso e per i quali ha speso tanti soldi, Bernardeschi, Douglas Costa, mi sembrava poter restituire Mandzukic al suo ruolo naturale e usare un esterno naturale di ruolo. Mi sembrava un 4-2-3-1. Ora con la presenza di Matuidi non so come lui voglia girare questa sì, perché c'è il rischio di aver fatto un mercato che per giocare con il 4-2-3-1 e poi scoprire che per proteggere la difesa devi cambiare tutto cambiare e magari tutto, mezzo allora mercato non è completamente funzionale. Ma perché i critici dicono che Matuidi, pagato tra l'altro 20 milioni più bonus, sia sostanzialmente il colpo della disperazione? Cioè ti accorgi che c'è un problema, è tardi perché è passata a Ferragosto, siamo nelle ultime 2 settimane di mercato, vai e strapaghi un trentenne che il Paris Saint-Germain lascia andare. Io non sono convinto che sia così, però anche tanti tifosi della Juventus lo pensano. Matuidi è un giocatore di buona qualità, soprattutto di tanta quantità. Forse ad Allegri serviva anche un giocatore del genere, visto che avendo perso Pogba con una certa fisicità, con Khedira, che è un giocatore un altro anno in più, che convive sempre con i suoi problemi fisici, con Marchisio, che ancora non è ritornato ad essere quel giocatore che abbiamo sempre ammirato, un giocatore che avesse un po' di fisicità alla Juve serviva. Beh, comunque diciamo che è un giocatore di completamento, sarà il perno della squadra comunque Matuidi, diciamo che è il centrocampista, il backup di Io penso che abbiamo preso un titolare, lì, no? Cioè tu uno pensi? Che in sei anni ha fatto 300 presenze quasi sempre da titolare nel Paris Saint Germain e le ha fatte le sue 50 stagionali, le ha fatte anche l'anno scorso. La Juventus ha preso un giocatore con l'idea di prendere un titolare, poi vediamo il campo, però ha preso un titolare, non ha preso una riserva. Sono d'accordo, condivido, però ritorniamo al discorso principale. Si rischia di vanificare comunque di mettere in dubbio un mercato che finora era stato condotto seguendo una linea, almeno per quello che ci appare dall'esterno, una linea tattica ben precisa, e che oggi scopriamo forse avere delle falle, però poi il campo poi vediamo. Il campo ci smetterà. Diciamo che probabilmente la Juve potrà vivere forse un periodo come quando ha vissuto il periodo di Bala, no? Zaza, eccetera, perché magari all'inizio, ricordate, l'inizio della stagione non era stato folgorante, anzi era arrivata addirittura a 11-12 punti dalla vetta, salvo poi avere una serie impressionante di vittorie che ha portato a vincere il campionato. Quando Dybala e dopo i rimproveri di Buffon eccetera rientrarono completamente con la testa nello stile Juve. Lo sa, forse dovranno farlo ancora Douglas Costa, Bernardeschi. Certo, ma siamo in un momento anche di cambiamenti, di fisiologico cambiamento, Gigi. E quindi dovranno un po' tutti capire dove sono andati a finire e come funziona. Però siccome il Napoli mi sembra, e l'Inter soprattutto, mi sembrano assolutamente più solide degli ultimi anni, un eventuale ritardo iniziale può pregiudicare. Sono d'accordo. Gigi, grazie, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Gigi De Canio. Ciao. Allora ci fermiamo per abbiamo la borsa. Abbiamo già la fila di telefonate, davvero. Adesso le facciamo. 800 24 00 24. Vi aspettiamo, siamo in diretta, siamo qui. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Convocati. Apriamo la fila delle telefonate. Gennaro Claudio, dai, Gennaro. 800 24 00 24. Ho già sentito un tut preoccupante. Gennaro, devo preoccuparmi. Claudio da Bergamo, buongiorno. Vai. Pronto? Dica. Sì, ciao. Buongiorno. Claudio da Bergamo, buongiorno, grazie della convocazione. E lei sta per chiedere l'Atalanta nella griglia, dove la mettiamo? No. L'Atalanta la mettiamo penso verso il sesto posto, quinto posto. Dietro le romane. Quinto posto vuol dire davanti alle romane. No, secondo me parliamone. Può esiliare la Roma. Sì, quindi, secondo me. Quindi mettiamo Roma sesta, Atalanta settima, facciamo così? No, facciamo Atalanta quinta e Roma sesta. A Lazio? La mettiamo, andiamo al Sorcio. Però è una bella scommessa, Civici, perché l'Atalanta ne ha persi tanti e ha l'Europa League. Sarebbe bellissimo se fosse capace di ripetersi sui livelli dell'anno scorso. Vediamo. Però voleva dire un'altra cosa. Sì, volevo chiedere un'opzione di mercato. Io sono tifoso dal Bologna. Adesso è arrivato Palacio. Vuol dire, secondo me, questo giro. Può darsi che Keita vada dalla Juve, destro alla Lazio, favoletti alla Bologna. Dunque, ripeti. Keita alla Juve, destro alla Lazio e Pavoletti al Bologna. Ci perché sta. Ha visto ultimamente destro, secondo me si sta stancando anche Donadoni di aspettarlo. Adesso chiediamo autorevoli conferme, ma secondo me non è così balzano. Cosa dici, Giovanni? Sì, mi sembra un po' complesso da mettere in piedi tutto in due settimane, però è vero che il Bologna quest'estate ha lasciato dei segnali contraddittori. L'eliminazione dalla Coppa Italia è di quelle che pesano per come è arrivato e a oggi è tra le grandi, diciamo, tra quelle che che partono dalla Serie A insieme al Crotone è quella che è più vicina alle tre neopromosse, quindi sicuramente ha bisogno di fare qualcosa. Io non so però se Pavoletti sia spostabile dal Napoli. Pavoletti è stato pagato quasi 20 milioni di euro pochi mesi fa, non è facile mettere in piedi questo tipo di sì, però sai meglio di me che le formule possibili sono millanta, no? Quindi non è questione di prezzo del cartellino plus valenza eccetera, c'è il prestito con diritto di riscatto, il diritto di riscatto con prestito, ci sono chi paga mezzo ingaggio, chi no, quindi volendo Pavoletti a Napoli non serve, diciamoci la verità. Gennaro, dai. Gennaro. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto complimenti per la trasmissione. Volevo soltanto fare questo pensiero. Ieri ascoltavo la diretta di Premium, anzi il post partita di Premium, e sono molto d'accordo con quello che diceva Sacchi, nel senso che nel Napoli non vedo ancora quella cattiveria agonistica per ammazzare la partita. C'è bel gioco, squadra, sono tifosissimo in Napoli, premetto, bel gioco, squadra stupenda, giocatori meravigliosi, però non vedo ancora quella cattiveria agonistica come la tipo Mertens, che corre su ogni pallone come un dannato. Non so se siete d'accordo su questa cosa. No, io no. Secondo me il Napoli ha anche cattiveria agonistica. È vero che poi l'anno scorso ha buttato via dei punti, però il Napoli viene da due stagioni in cui di punti ne ha fatti una marea. Con le quote del Napoli, della Roma, tradizionalmente tu avresti vinto lo scudetto, e quindi vuol dire che è un gioco redditizio e non soltanto bello tanto per giocare bene. Poi si può migliorare, io credo che la scommessa sia quella, cioè tenersi tutta la squadra, praticamente non fare inserimenti e vedere se tu puoi replicare i 48 punti fatti nel girone di ritorno dell'anno scorso. Ripeto quanto ho detto prima. Se ce la fai, vinci lo scudetto. Sì, ma ripeto quanto ho detto prima: un segnale magari così emotivo, così, fantasioso, è Jorginho, che l'anno scorso è stato messo nell'angolo e che ieri è stato protagonista della partita, gol compreso. A proposito di autorevoli conferme, il mio amico Luca Marchetti da Sky, ciao Luca. Ciao, chi è l'autorevole conferma? Sei tu. Abbiamo un giro di mercato pazzesco da sottoporti. Tu. Abbiamo un giro di mercato pazzesco da sottoporti. Ripeti un po', Giovanni. Allora, Keita va alla Juve, Pavoletti va alla Lazio, Destro va alla Lazio e Pavoletti va al Bologna. Io di questo ti salvo solo il primo. Ce lo smonti tutto, no, all'amico, smonti tutto all'amico che ha chiamato prima. Vabbè. Sì, perché se dovesse andare via Keita dalla Lazio, credo che prenderanno un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Keita. E perché che non sono quelle di Matti a Destro, per intenderci. No, è perché Pavoletti ha un paio di offerte dalla Spagna, Leganese e Alavessa, e dall'Italia lo cercano l'Udinese e la Spalla. E quindi non, sta cercando, quindi, il Bologna. Quindi vedi, Capuano, tu quindi dici Pavoletti con qualche costo non si muove, però io ti ho detto io la vedo difficile che Pavoletti resti in Italia, ma perché? Con un'operazione con che possa in qualche modo, ti ripeto, con tutte le formule anche che mantenere ci sono, quelle che sono le aspettative di riscatto, del Napoli, prestito con riscatto, baratto, per un discorso di cartellino o per un discorso di ingaggio? Ma tutte e due, ma sono superabili. È un giocatore secondo me che non è più riciclabile a un livello sotto quello di una buona Serie A. Sì, però è anche vero che se questa squadra qui non ti trova, rischi di rimanere fermo, e quindi meglio andare a giocare piuttosto che rimanere fermo. Purtroppo per fortuna siamo arrivati negli ultimi 15 giorni di mercato, quindi alle volte le decisioni vengono prese anche di pancia più che di testa. Senti, quello che c'è a un certo punto. Senti, c'è il mio amico Capuano, che è mica convinto dell'acquisto di Matuidi, cioè dice non. Perché dice non è che è l'uovo di Colombo, non è che è l'Arabe Fenice, non è che. Cioè, non è un top player, è però quello che serviva. Quello che serviva. Trovo esagerate però le critiche di chi abbastanza dice che è stato preso un trentenne strapagato. No, per me nel ruolo è funzionale. È un top player. Per me nel suo ruolo, nel ruolo che ha sempre avuto, è un giocatore da top squadra in Europa. Faccio fatica a trovarne di più forti, che poi possono esserci invece più giovani, sì, però li vai a pagare molto di più. Però è stata un'opportunità di mercato sicuramente anche importante, perché comunque era scadenza contratto, ed è soprattutto, questo credo che trovi d'accordo me e Giovanni, quello che serviva. Ma la Juve un giocatore così non ce l'ha. No, ma infatti, ma appunto è quello che serve per passare a tre. Poi capiremo cosa se ne fanno di tutti gli esterni. Ma Keita compreso, a domanda a rispondere l'ascoltatore di prima diceva: però se la Juventus non sistema la difesa non la vedo competitiva. Deve sistemare la difesa? Allora, io credo che la Juve da adesso in poi penserà al discorso Keita, Spinazzola, e valuterà se sarà necessario andare a prendere un difensore in più, che almeno a livello numerico, per quello che ci hanno insegnato a scuola di calcio, a noi servono 5 difensori centrali per una stagione. La Juve ora ne ha 4. Per quello che ha insegnato la Juventus nell'era Marotta Paratici, un giocatore preso tanto per prendere poi comunque non gioca, e quindi tanto vale non prenderlo. All'ascoltatore, anche se in passato questo errore l'hanno fatto, sì, mi viene in mente Hernanes. No, ma ne hanno fatti anche di peggio, Giovanni. No, ma dico del giocatore preso l'ultima settimana sotto la spinta della pressione popolare. Bentner avrà giocato 3 minuti in campionato, ma è un'altra era geologica. Sì, però detto questo, ti dico che detto questo, la tenuta difensiva non dipende solo dai difensori. E se la squadra, come è successo sabato contro la Lazio, corre meno dell'avversario, rischi comunque che la tenuta difensiva non ci sia, anche se c'è Cannavaro dei vecchi tempi. Ti ricordo che Cannavaro a Madrid venne fischiato, l'anno dopo vince il pallone d'oro. Sì. Ho due domande veloci da farti, Luca. La prima: cosa sta succedendo tra Kalinic e il Milan? Se c'è qualche intoppo, visto che ieri era tutto fatto, tutto chiuso, ha salutato, ha svuotato l'armadietto. E oggi siamo ai comunicati con minacce di multa della Fiorentina. La seconda è: il Valencia ha convocato Cancelo per la prima di campionato, sì. Quindi? E quindi aspetteremo, ma credo che la trattativa di Cancelo credo che sia in discesa, perché è un'opportunità per entrambi, sia per l'Inter che per il Valencia. Sul discorso Kalinic, evidentemente al giocatore, come forse anche noi della stampa, ce l'hanno venduto più facile di quello che potesse essere. Queste trattative lunghe, ne abbiamo avuto modo di parlarne anche nei giorni scorsi, quando arrivi alla fine, cioè quando arrivi al momento che bisogna decidere modalità di pagamento, garanzie di pagamento, quanti soldi do quest'anno, quanti soldi do l'anno prossimo al giocatore, cioè cerchi sempre di strappare il massimo. Guarda Dalbert, da che doveva venire a Milano lunedì scorso è venuto con 10 giorni di ritardo, perché Nizza ormai ha capito: o lo vende all'Inter o non lo vende a nessuno. Però a questo punto anche Nizza sa, l'Inter solo questo c'ha in questo momento in mano, e credo che sia il gioco delle parti tra Fiorentina e Milan. Però il Milan fa. È convinto però di chiuderlo fatta. Secondo me è impossibile che non si faccia, sarebbe clamoroso se non si facesse. Impossibile non lo dico più. No, parola proibita. Però sarebbe clamoroso. Tabù. Sarebbe impossibile, tabù. Però difficilmente sarà in campo, sarà disponibile per domenica. Vabbè, questo lo possiamo dire. Secondo me è impossibile. Mentre la Fiorentina ha preso Simeone. È impossibile. Mentre la Fiorentina ha preso Simeone con l'ottica di averlo già disponibile per la trasferta di San Siro. Ma vuol dire che qualcosa evidentemente si è incastrato. No, lì, attento però Giovanni, perché c'è anche l'Everton. Cioè, la Fiorentina è convinta di vendere Kalinic. Ma chi? Al 100%. Non ancora deciso. A chi pensa 99% Milan, se non lo faccia al Milan c'è comunque l'Everton. Ah, certo. Il problema è che Kalinic al 100% vuole andare al Milan. Quindi abbiamo già capito. Luca, ti ringrazio. Grazie. Ciao abbracci, Luca Marchetti da Sky, ci fermiamo per il traffico. C'è Antonio da Cosenza in fila. C'è una fila. 240024, ciaffico. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Torniamo alla fila, che non è quella di Leo Turrini sulla Però Cormano. Volevo dare un aggiornamento. Ce ne sono alcuni che ci stanno scrivendo con il Napoli sopra la Juventus in prima fila. La pole position della griglia del campionato, che lo diciamo, noi andiamo avanti anche domani. I caressisti. Quindi, se volete mandarcela. I caressiani. Sì. Ma sai, resta nell'occhio il Napoli che ha fatto benissimo ieri per lunga parte contro il Nizza, la Juve che ha fatto male, molto male contro la Lazio, ti resta nell'occhio questo. Ti ripeto, siamo agli exit poll. E quindi di pancia il tuo exit poll è Napoli davanti alla Juventus. Antonio? Buongiorno. Buongiorno. Grazie per la convocazione. Grazie, ragazzi. A lei, dica. Allora, niente, vabbè, il Napoli sopra la Juve, mi pare un po' troppo. Comunque la mia griglia è questa. Sì, perché Guardate, secondo me la Juve è molto più forte dell'anno scorso. Uno. Molto più forte l'anno scorso, molto, però è Arda anche questa, perdonami. Sì. No, è un po' porno anche questa. Anche azzardata la cosa. Sono convinto anche di questo. Però lasciamo stare la partita di sabato, io quella non la considero. Abbiamo perso la Supercoppa, non è un problema. Però secondo me, per me la griglia è questa. Juve prima, Roma seconda. Roma? Terza. Sto per dire un'altra cosa adesso. Vai. Terza l'Atalanta, ragazzi. Io la vedo proprio bene. Noi registriamo tutto. Siamo. Poi, chi è che va in Champions ancora? Quarta, mi piacerebbe la Fiorentina. Perché è una squadra, ragazzi, stiamo attenti, perché è una squadra anche in costruzione, con molti giovani. E bisogna stare molto attenti. Perché aspetta, quindi... Antonio, che ti facciamo rispondere da Giona da Napoli. Quindi... Per cui tu metti fuori il Napoli dalla Champions. Aspetta, ragazzi, siamo in fascia Giona... protetta. Ciao. Io vi ricordo che siamo in fascia protetta. Innanzitutto, complimenti per la trasmissione. Ad Antonio. Dimmi. No, io la mia griglia era Juve, resta nettamente in avanti, anche se sono tifosissimo del Napoli. E poi dietro subito le milanesi, l'Inter, secondo me quest'anno con Spalletti secondo me tu stai facendo il furbo, Giona, perché? un po' di scaramanzia, questo non è fare i furbi del ritorno della partita di martedì, che tutti quanti ci danno per qualificati. Sì, aspettiamo, magari l'Inter vince 8-0, ecco. hai visto mai basta un gollettino. No, ne servono tre, se la matematica non è un'opinione. Per il Napoli basta un gollettino. Sì, per il Napoli sì, per il Nizza ne servono tre, se la matematica, ripeto, non è un'opinione. Allora, però per me la Juve resta favoritissima. No, ma io sono d'accordo, e comunque sposo la mia griglia di prima, che è quella della stampa di oggi. Ripeto, Juventus davanti al Napoli, le due milanesi scegliete voi in quale ordine, e le due romane scelgo io l'ordine, invece in questo caso Lazio davanti alla Roma. Allora, invece, ho pochi dubbi sulla griglia di partenza del campionato spagnolo, soprattutto dopo quanto visto ieri sera. Muy metido está el Madrid, le pega Sancho al arco, golazo. ¡Gol! Muy metido, muy dormido el Barça, señores. La agarra Sancho, la pone en el ángulo, 4 minutos. Real Madrid 1, Barça 0. Asensio para Marcelo, Marcelo el centro, Benzema la primera, la segunda, gol, gol, gol, gol. Puntilla al partido y al Barça, que no puede con este Real Madrid. Allora, Ricci Filippo Maria, buongiorno amico mio. Buongiorno. Cosa hai visto ieri sera? Anche domenica ho visto un 5-1. Hai visto una squadra che bisogna sparargli in questo momento. Si è ribaltata. Ci vuole la l'esercito, storia. Sì, come dice Piquet, dopo 9 anni, 10 anni, dice, ho la sensazione che il Real Madrid sia più forte di noi. Sensazione. Buon per lui. Sensazione. No, dice la sensazione. Mi rendo conto, insomma, che sono più forti loro. E sì, abbastanza clamoroso, perché poi dopo il Barça è una squadra, in questo senso, abbastanza tipica, nel senso che entra in una spirale di autodistruzione, di grande depressione, ed è difficile tirarsene fuori. Cioè, ieri la squadra ha avuto una vampata, attaccata a Messi, e c'è solo lui, però in generale sono timidi, sono pallidi, sono in grande difficoltà. Sono senza allegria, come ha scritto il Mundo Deportivo. Sì, però non è solo questo, manca proprio la forma, la condizione, la testa, e c'è una grande frattura tra squadra e dirigenza, per cui la situazione è poco brillante. Ovviamente poi Neymar, che a volte poteva anche essere non stimato a dovere, ora ci si rende conto di quanto pesasse, perché comunque i suoi dribbling, la sua creatività, i suoi gol, i suoi passaggi sono una cosa, adesso lì c'è un buco. Ieri hanno addirittura cambiato sistema, era tempo che io non vedevo, a volte sì, la difesa 3, però ieri erano cambiato il 3-5-2 perché gli manca la terza punta. L'Europeo ha giocato all'andata, ha fatto male, ieri l'ha fatto fuori. E adesso vediamo, perché poi sì, ci sono tutte queste voci di mercato, ma insomma io non penso che un Dembélé che arriva qui a 20 anni o quanti ne ha, pagato 150 qualcosa. Milioni, anche un Coutinho, buon giocatore. Anche Coutinho è un buon giocatore, ma non è Neymar, dai. No, e pesano. Ma Coutinho può valere 130-140 milioni me, di euro? No, secondo me è un effetto ottico perverso dell'affare Neymar, che ripeto, fare Neymar che è a sé stante non rappresenta un termine di paragone, però quei soldi per Coutinho sono onestamente una pazzia. Però il paradosso, ma è ancora peggio per Dembélé. Dembélé ha fatto un anno, l'anno scorso costava 20 milioni. Il paradosso è che il Real Madrid sta diventando una squadra imbattibile per sottrazione. Perché è vero che il Barcellona ha perso Neymar, ma il Real Madrid non ha fatto un mercato aggressivo, non ha portato dei giocatori, ha venduto. Il Real Madrid è un grande esempio, secondo me, di come creare uno squadrone senza fare follie. Io l'altro giorno ho twittato, qui in Spagna ovviamente hanno apprezzato parecchio, il fatto che della rosa presente del Real Madrid solo Bale e Cristiano Ronaldo sono costati più di Paulinho. Perché questi hanno pure preso Paulinho a 40 milioni da una squadra cinese, il Barcellona, dico. Allora, tutti gli altri giocatori sono costati meno. Quindi vuol dire che hai costruito una grande squadra senza spendere grandi cifre. Facendo attenzione, sono tanti spagnoli, tanti giovani, alcuni canterani che sono stati mandati via e ripresi. Voglio dire, abbiamo criticato tante volte Florentino Perez per alcune sue decisioni, per alcune sue situazioni, ma in questo caso ha costruito una squadra spettacolare. E senza fare follie, anzi ha incassato, perché comunque aveva speso male per James e li ha recuperati, ha speso per Morata, l'ha venduto più del doppio, e via dicendo, insomma, sì, Danilo è riuscito a rifare i soldi, che è stato un investimento sbagliato, per cui Di Maria, ricordate, è venduto a preso d'oro, insomma, il Madrid ha anche saputo vendere, si muove sul mercato in maniera spettacolare, e adesso qui, visto che domani comincia la Liga, io vedo un dominio assoluto, inattaccabile, mi sembra. Quando sento questi superlativi assoluti prima dell'inizio della stagione, in queste due partite il Real Madrid ha dato l'impressione di fare uno sport leggermente diverso rispetto al Barcellona. Sì, leggermente diverso. Data agosto 17 2017, quando sento parlare di dominio assoluto, imperturbabile, immutabile, l'impero su cui non cresce mai, non tramonta mai il sole, a me viene voglia di fare tutti gli altri da anarchico. Perché salutare già? 57 mi dice Ferronato. Oh, già finita qui. Vabbè, allora lasciamo tutti le loro fregole. Vabbè, tanto ci sentiamo domani. Ciao, Phil. Va bene. Ciao. E poi domenica torniamo, Domenica torniamo dalle 17. Sei in condizione? Diretta, sì. Assolutamente, sono in condizione. Domani. Perfetto. Sono come Modric. Anzi, la butto lì. Modric, visto in questo periodo, forse è anche meglio di Pirlo. Quando è stato Pirlo. Ne abbiamo dette di cazzate, Ma domani ricominciamo. Alle 14. Alle 14, grazie. Oh, mandateci la vostra griglia, Hashtag griglia Serie A, hashtag tutti convocati, oppure scrivete, siete, fate quello che volete. Già che ci siete, mandateci pure una grigliata, che fame, siamo qua. Anche per Gianmarco Ferronato in regia e Claudia Schiattone, il nostro autore, ci sentiamo domani alle 2, ragazzi. Allora questa è la cosa, no? Che almeno una risata se la siamo fatta. Signori, alla prossima!